Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Come stai? Bene, grazie, tu? Pronta a partire? Io sì. Io bene. Cominceremo con la particella XI. Andiamo a vedere di che cosa si tratta veramente. E poi parleremo di api e ci immergeremo nei fondali di Messina. E infine un libro raccapricciante, ma interessantissimo. Quindi rimanete con noi. Senti qualcosa? No. La macina caffè silenziosa sta arrivando. Vi ricordate il nostro concorso? Sono già arrivati i progetti, sono in via di valutazione e ci dicono che... Senti, non si sente niente. Finalmente! Ogni tanto, quando arrivano grandi notizie, grandi tra virgolette, perché a volte sono grandi e a volte sono magari un po' meno grandi... A volte riguardano l'infinitamente piccolo. Piccolo, come in questo caso. Noi qui a Möbius cosa facciamo, siccome andiamo in onda una volta alla settimana? Vediamo un po' tutto quello che viene fuori nell'informazione diffusa e poi cerchiamo di fare il punto. E qui in questa puntata vogliamo fare il punto sulla particella XI. Abbiamo qui con noi questa sera Guido Tonelli. Buonasera Tonelli. Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Buonasera e benvenuto a Möbius. Allora, Tonelli è senior scientist al CERN di Ginevra, dove ha lavorato e lavora al CMS. Ci dà subito un'apertura di questo acronimo, CMS. L'acronimo vuol dire solenoide compatto a muoni, compact muon solenoide. Non vuol dire molto al grande pubblico, ma indica la struttura particolare che ha il nostro rivelatore. Possiamo dire, semplificando, che lei è stato uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs, appunto al CERN di Ginevra, ed è professore di fisica all'Università di Pisa. Tutto perfetto. Tutto corretto. Allora, Tonelli, è partita questa cosa su tutti i media, addirittura anche internazionali, grande scoperta della particella XI. Forse sì, c'è stata un'enfasi eccessiva? Siamo rimasti tutti un po' stupiti dall'enfasi che ha avuto questo risultato, che pure è un bel risultato, nei mass media. Come, diciamo, capita raramente, c'è stato un eco mondiale a questo nuovo risultato, il che ci fa piacere, però ci ha fatto anche un po' sorridere, perché non si tratta di una scoperta epocale, cioè tutti ne siamo consapevoli, è un bellissimo risultato, non è questa cioè una particella elementare, cioè non si può paragonare al bosone di Higgs, cioè uno dei costituenti elementari della materia. Ma voi sapevate di trovarla, si sapeva che c'era lì da qualche parte? Diciamo, la natura può sempre riservare sorprese, quindi il nostro lavoro, il lavoro degli scienziati, e in questo caso particolare degli scienziati di LHCb, è di andare ad investigare negli angoli più nascosti se le particelle previste dalla teoria, questa era una particella che era prevista dalla teoria, però nessuno era riuscito mai a scovarla. Questa particella che era molto elusiva, era molto timida, si nascondeva molto bene, però effettivamente è una scoperta che non ha colto di sorpresa. Ecco. Ecco, diceva già prima che non è una particella proprio così elementare, una particellona. Esattamente, sì, diciamo, la materia così come la conosciamo ha dei costituenti elementari. L'elettrone è uno di questi, i quark sono particelle elementari e sono particelle elementari anche quelle che portano le interazioni, come la forza forte, la forza debole e così via. La combinazione di queste particelle elementari tenute insieme dalle particelle che producono le forze, che portano le forze, dà origine agli stati composti della materia. Per esempio, il protone, quello intorno al quale gira l'elettrone per fare un atomo di idrogeno, è fatto da quark e gluoni, cioè è fatto da tre quark leggeri tenuti insieme da gluoni che portano la forza forte. Quindi è una particella composita, importantissima, ma è composita. Ecco, questa XI, il cui nome appropriato sarebbe molto complicato, sarebbe XI CC++, quindi è una cosa un po' cinese, è una particella composta anch'essa da tre quark. La peculiarità, la particolarità di questa particella è che è fatta da due quark pesanti e uno leggero, mentre fino ad ora tutte le particelle fatte da tre quark avevano al massimo un quark pesante. Questa è una particella cicciona, è per questo che è molto interessante, perché avendo questa struttura così particolare ci permette di capire meglio come stanno insieme i quark in queste particelle, diciamo, un po' strane, e questa cosa la possiamo estendere a capire meglio leggi della natura più generali. Quindi è uno strumento per, ovviamente, ecco, come sempre succede, noi dobbiamo vedere il progresso scientifico diciamo che procede per due strade, no? Una strada sono le grandi scoperte, quelle che segnano un'epoca. Ne abbiamo avuto negli ultimi 5 anni due, il bosone di Higgs e le onde gravitazionali, cioè cose che cambiano la visione del mondo. Poi c'è un accumulo di conoscenze attraverso piccole scoperte oppure misure di precisione, con la possibilità che alcune delle cose che misuriamo siano diverse da quello che prevede la teoria. Quelle sarebbero anch'esse grandi scoperte. Quindi quello che ora sta succedendo è questa XI, si sta studiando in dettaglio per vedere se per caso avesse delle anomalie, perché se avesse delle anomalie questo allora la renderebbe ancora più interessante. Senta Tonelli, l'annuncio di questa scoperta è stato dato in occasione della conferenza internazionale della Società Europea di Fisica organizzato dagli NFN e dall'Università di Padova a Venezia. Nel corso di questo incontro, di questo meeting internazionale, è emerso anche il fatto che comunque sono attesi, sono dietro l'angolo, sono in arrivo risultati molto interessanti per la fisica, altri risultati, grazie proprio a questa mole enorme di dati che state producendo al CERN, al CERN di Ginevra. Io vorrei che, diciamo, si instaurasse proprio questo atteggiamento. Il progresso scientifico è fatto di tanti piccoli passi che a un certo momento convergono in una specie di catastrofe, no? Cioè in una scoperta che cambia tutto. Fanno boom. Ora siamo nella fase dei piccoli passi. Per esempio, ancora non abbiamo trovato la soluzione ad alcuni dei grandi misteri che restano aperti dopo la scoperta del bosone di Higgs. Per esempio, non sappiamo l'origine della materia oscura, non sappiamo cosa ha prodotto l'inflazione, cioè questo rigonfiamento iniziale da cui è nato il nostro universo, e così via. Però quello che ho visto a Venezia è che dagli esperimenti agli acceleratori, agli esperimenti sui satelliti, ad esperimenti sotterranei, ad esperimenti in Antartide, ecco, dovete vedere le truppe della conoscenza distribuite, no, a cercare risposte un po' ovunque, si accumulano nuovi dati, si accumulano nuovi risultati. Nei risultati sono delle cose che dobbiamo ancora capire. Questo ci dice che è probabile che nei prossimi anni vengano fuori sorprese. Ovviamente bisogna avere pazienza, perché le sorprese potrebbero venire fra un mese, fra un anno o fra 20 anni. Certo, certo. Vi ricordo, per il bosone di Higgs abbiamo messo 50 anni per trovarlo, le onde gravitazionali quasi 100 anni. In fisica ci vuole un'estrema pazienza, ma i periodi in cui si accumulano conoscenze, anche minute, sono altrettanto importanti dei periodi in cui c'è, diciamo, si precipita tutto questo in una grande scoperta. Guido Tonelli, abbiamo ancora una serie di curiosità, perché ci piace esplorare con lei alcuni mondi, al che appunto lei ha raccontato nel suo ultimo libro, Cercare mondi, esplorazioni avventurose ai confini dell'universo. Però il tempo stringe, allora se è d'accordo continuiamo a parlarne anche sul blog di Mebius, sul sito di Radio 24. Intanto grazie per essere stato con noi e buonasera. Grazie a voi. Dopo la particella grassoccia arrivano le notizie sul traffico. La prima guerra mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, ultima leva ad essere chiamata alle armi. E quest'anno diventano maggiorenni altri ragazzi del 99, nati 100 anni dopo, nel 1999. Diventano grandi non in guerra, ma partono anche loro per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato, per una gara sportiva. Radio 24 ve li racconta, ragazzi del 99, incontrandoli e facendoli parlare. Di cosa fanno, cosa vorrebbero cambiare, come disegnano il loro futuro. Ritratti di ragazzi straordinariamente normali. I ragazzi del 99 di Maria Piera Ceci. Il sabato alle 14.30 e la domenica alle 9.30 su Radio 24. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E ed è arrivato il momento di rispondere a una delle vostre domande. Anche questa sera, dopo le zanzare, lo ricordate, della scorsa settimana, restiamo ancora nel regno animale. Infatti ha a che fare con le api la domanda che ci ha inviato Gabriella. Ci scrive: più volte ho letto di sciami di api in città, per esempio a Corso Buenos Aires hanno completamente poco tempo fa ricoperto la ruota di una bicicletta. Naturalmente si riferisce a Milano, ma ho letto, continua a scrivere, anche delle sorti sempre più incerte di questi insetti. Allora ci chiede: corrono veramente il rischio estinzione? E quali le conseguenze di un'eventuale scomparsa delle api? Noi abbiamo girato la domanda a Francesco Nazzi. Buonasera. Buonasera. Professore al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università di Udine. Dunque, innanzitutto conviene forse precisare che non sono effettivamente a rischio di estinzione le api domestiche, perlomeno, ma sono in declino in molti paesi dell'emisfero settentrionale, sia le api domestiche che le api selvatiche. Alcune specie di api selvatiche sono effettivamente estinte, le api domestiche non sono a rischio di estinzione, ma subiscono ogni anno delle gravi perdite su una parte del pianeta. Le possibili conseguenze sono effettivamente preoccupanti, possibili conseguenze di questo declino, intendo dire, perché le api domestiche e selvatiche favoriscono l'impollinazione incrociata delle piante, cioè favoriscono la riproduzione delle piante, di tutte le piante con fiore, presa poco. E questa impollinazione è anche essenziale per le colture agrarie, perché influisce sulla produttività delle colture agrarie. Dunque, in pratica, studi recenti hanno permesso di accertare come presa poco tre quarti delle colture agrarie importanti per l'alimentazione umana, che sono coltivate a livello mondiale, hanno bisogno di impollinatori animali, e quindi di conseguenza circa un terzo di ciò che noi mangiamo dipende più o meno direttamente dagli impollinatori animali, e le api sono i più importanti impollinatori animali. A questo punto cerchiamo di chiarire che cosa mette a repentaglio la vita, la sopravvivenza delle api. Pesticidi, parassiti, inquinamento, sono questi i principali responsabili dello spopolamento degli alveari? Effettivamente i principali responsabili sono diversi. Ecco, questo è il primo dato da tenere presente. Il fenomeno a cui stiamo assistendo è un fenomeno multifattoriale, usiamo dire noi ricercatori, perché sono tante le cause che influiscono sulla salute delle api. E tra esse sicuramente i parassiti e i patogeni. Ad esempio un acaro che è stato importato negli anni 50 in Europa e proveniente dall'Estremo Oriente, che succhia il sangue delle api, ad esempio. Un virus che causa deformità nelle api. Poi ci sono certi pesticidi che servono per tenere a bada insetti dannosi alle colture agrarie, ma in quanto insetticidi nuociono anche alle api. Ecco, a proposito di questo, lei stesso con il suo team ha riscontrato che in particolare i pesticidi neonicotinoidi, che sono appunto tra i più utilizzati in agricoltura, possono alterare le difese immunitarie delle api, favorendo così l'esplosione di infezioni virali. Proprio recentemente sono stati pubblicati due studi su Science che mettono sotto accusa ancora una volta i neonicotinoidi, in quanto mettono effettivamente a repentaglio la sopravvivenza delle api, soprattutto influiscono negativamente, sembrerebbe, sul successo riproduttivo delle api e sull'aspettativa di vita. Sì, tra i pesticidi hanno un ruolo importante questi insetticidi neonicotinoidi, perché si tratta di sostanze che esercitano molti effetti subletali, vuol dire che prima ancora di uccidere le api esercitano degli influssi che riguardano, per esempio, l'attività, la navigazione delle api, ovvero la loro capacità di tornare al nido, la riproduzione delle api dei bombi, il sistema immunitario, dunque la capacità di far fronte a infezioni virali. Sono importanti, insieme naturalmente va tenuto presente a molti altri fattori come quelli che ho detto prima ed altri ancora. Senta, ma siccome dello spopolamento degli alveari se ne parla da un po', ecco, la situazione ad oggi è più critica, è stabile, a che punto siamo insomma? Dunque, si parla di questo problema da almeno una decina di anni, i primi allarmi sono del 2006 e vengono dagli Stati Uniti. La situazione attualmente in Europa vede perdite di colonie di api domestiche dell'ordine del 25% ogni anno. Questo non significa che stanno gradualmente scomparendo, perché queste colonie perdute ogni anno vengono rimpiazzate l'anno successivo dagli apicoltori. Tuttavia questo viene fatto sempre con sempre maggiori sforzi. E va inoltre notato un'altra cosa, che anche se non ci fosse effettivamente un declino, è un dato di fatto che l'agricoltura ha sempre più bisogno di impollinatori, per cui il problema in sé sembra essere relativamente stabile ultimamente, ma gli effetti sono ugualmente preoccupanti, perché dall'altro lato aumenta la richiesta di impollinazione. E allora, Francesco Nazzi, intanto la ringrazio per essere stato con noi questa sera. Continuiamo, se vuole, poi questa chiacchierata anche sul blog di Mebius, sul sito di Radio 24. E a lei buona serata. Buonasera a voi. Le api, che dire, non solo senza la loro attività di impollinatrici, insomma, nel mondo ci sarebbero meno risorse alimentari. Parliamo di api anche perché a quanto pare sono animali molto intelligenti e infatti il loro cervello, seppur minuscolo, pensa, pianifica, fa di conto. Dell'intelligenza delle api, Federico ne ha parlato con Giorgio Vallortigara, che ha introdotto un saggio, questo proprio il titolo del saggio, pubblicato da Raffaello Cortina Editore. E tanto che si ragiona e si fa ricerca sulle api, sulla loro intelligenza, sui loro comportamenti complessi, eppure c'è ancora molto da dire. A tua impressione c'è anche ancora molto da capire? Sì, credo che abbiamo appena iniziato a scalfire la complessità della vita cognitiva di questi animali, sì. Che cosa hanno di particolare, secondo te, quando parliamo appunto di intelligenza in questi animali rispetto ad altri? Sì, per molti anni ci si è concentrati soprattutto su questo aspetto dell'intelligenza collettiva, no? Si parla delle api e si parla della struttura dell'alveare, della loro organizzazione sociale, ma quello che c'è di nuovo, secondo me, di interessante in questo libro è appunto che i protagonisti sono le api individuali, cioè le capacità dei singoli animaletti. E quello che c'è di notevole sono le dimensioni del sistema nervoso rispetto a quello che sanno fare, che dà molto da pensare. Cioè il cervello di un'ape ha meno di 1 milione di neuroni e sono capaci di fare cose straordinarie che noi consideriamo tradizionalmente come parte dei processi di pensiero. C'è un video molto bello che gira nel grande mare di Facebook. Si vede una singola ape alla quale viene data una gocciolina di zucchero, della quale lei evidentemente è molto molto golosa. Poi dopo questa gocciolina viene depositata un po' avanti, ci sono degli ostacoli e si vede che questa singola ape fa di tutto per raggiungere la gocciolina e ci riesce sempre. Sì, sì, sono in grado di per esempio orientarsi anche in labirinti complicati facendo una serie di svolte a destra e a sinistra per raggiungere un premio come per esempio una gocciolina, ma questa tecnica di sfruttare, diciamo così, un premio, una ricompensa può essere utilizzata per indagare una varietà di fenomeni, per esempio se sono capaci di formare dei concetti. Per esempio di riconoscere quello che è uguale da quello che è diverso, in astratto. E quindi si insegna ad un'ape, per esempio, che tra due stimoli qualsiasi, poniamo un triangolo e un cerchio, tra cui deve scegliere dopo averne visto uno in precedenza, la regola è scegli l'eguale. Quindi ti faccio vedere un cerchietto, poi ti faccio vedere un cerchietto e un triangolo, e per ottenere il premio tu devi scegliere

stiamo cercando di monitorare quello che succede nel fondale del Mar Ionio, per appunto monitorare l'attività sismica e geochimica. Le strutture tettoniche più importanti si trovano proprio in corrispondenza del Mar Ionio. Da un lato si sono verificati lì i terremoti più forti della storia di tutto il territorio nazionale. Sì. C'è l'Etna, la cui origine è ancora abbastanza sconosciuta, ma comunque si sa che ci sono collegamenti con le strutture che si trovano a mare. È abbastanza naturale cercare di approfondire la conoscenza di quello che è una zona appunto ad alta pericolosità. Abbiamo installato una serie di strumenti che sono appunto degli strumenti molto particolari, costruiti proprio per poter monitorare i fondali marini, per registrare la sismicità che occorre appunto sul fondale oceanico. Ecco, a proposito di strumenti anche molto tecnici e particolari, ci può spiegare che tipologia di strumenti per questo esperimento, per questa ricerca avete utilizzato? Abbiamo utilizzato degli strumenti che si chiamano Ocean Bottom Seismometers, cioè sismometri di fondo oceanico, che sono appunto dei veri e propri sismometri, sono gli strumenti con cui registriamo anche a terra la sismicità, soltanto che questi rispondono a delle caratteristiche tecniche particolari proprio perché vengono installati sul fondo del mare, quindi in condizioni estreme se vogliamo. Durante la campagna oceanografica vengono comunque effettuate altri tipi di indagini, fra cui appunto viene ricostruita proprio quella che è la batimetria dei fondali. Questo perché intanto da un certo punto di vista ci aiuta a capire quali sono i punti ottimali per andare a installare le stazioni, e poi appunto dalle indagini batimetriche siamo in grado appunto di individuare anche delle strutture che potrebbero appunto dare origine a terremoti. Siamo in grado di individuare se si sono verificati nel tempo dei fenomeni franosi, l'evento che comunque potrebbe a sua volta provocare appunto la generazione di tsunami. Per cui appunto unendo le analisi da vari punti di vista, quindi le analisi sismologiche, quelle morfobatimetriche e quelle geochimiche. Ecco, spieghiamo adesso appunto morfobatimetria, sì. Quindi di cosa si tratta? Si tratta proprio di vedere quello che è l'andamento del fondale oceanico, quindi le profondità, la presenza di asperità e così via. Ed è proprio quello che manca, perché andiamo nello spazio da anni, invece i fondali marini rimangono sempre un po' scuri. Beh, i fondali marini non sono dei luoghi abbastanza semplici da analizzare, proprio appunto per la presenza della colonna dell'acqua. Nessuno può andare proprio sul fondo e vedere com'è fatto. Certo. Per cui anche lì abbiamo bisogno di effettuare delle analisi particolari proprio per vedere l'andamento. E infatti il mare è stato sempre l'elemento ancestrale più misterioso per l'essere umano. Destava stupore e ammirazione anche più di 2000 anni fa con le grandi storie degli storici della Roma antica. Ancora oggi però, dopo così tanto tempo, è capace di spaventarci e di causare vere e proprie tragedie. Ma perché questo rapporto secondo lei, e qual è in particolare il suo rapporto con il mare? Il mio rapporto con il mare è un rapporto esclusivamente di amore, un po' appunto perché sono nata a Catania e quindi il mare ce l'ho sempre avuto davanti. E poi perché appunto, come dicevo prima, quelli che sono gli eventi più catastrofici del territorio italiano si sono proprio verificati in mare. Sì. Per cui la conoscenza da questo punto di vista ancora è molto bassa di quelle che sono appunto le strutture che hanno generato i grossi terremoti, gli tsunami. È importante appunto fare degli ulteriori passi avanti, ed è quello che stiamo cercando di fare con il nostro progetto. Quindi lei, possiamo dire che da piccola ha avuto subito il sogno di combattere Scilla e Cariddi? Ci sono nata con terremoti e eruzioni, per cui sì, il fatto di essere nata a Catania, di aver avuto costantemente la possibilità di vedere e di vivere eruzioni vulcaniche e anche terremoti, ho vissuto in prima persona il terremoto del 1990, questo appunto mi ha portato a far sì che nascesse in me l'amore da un lato per la geologia, dall'altro per il mare. Andiamo un po' a parlare di questo importante progetto. Insieme a voi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fanno parte anche CNR, Centro Nazionale di Ricerche, e l'Università La Sapienza di Roma. Sì. Qual è la forza di questa liaison scientifica e quali sono i diversi valori e ruoli in gioco? La forza di questa collaborazione che ha avuto luogo è stato proprio quello di accomunare persone con comuni interessi scientifici che volevano andare a fondo su certe problematiche che comunque rimangono ancora abbastanza sconosciute, con cui appunto c'erano già diverse collaborazioni da vario tempo, e abbiamo voluto concretizzare ancora di più questa cosa proprio con il progetto Sism Falls. Tiziana Sgroi, buona ricerca e buon bagno. La ringrazio. L'annuncio è stato dato pochi giorni fa, l'11 luglio per l'esattezza, e forse non è un caso che Stefano Fantoni abbia sottolineato che Trieste ha vinto con un cucchiaio ai calci di rigore. 35 anni fa, infatti, l'11 luglio l'Italia diventava campione del mondo, l'Italia del calcio. Qualche giorno fa Trieste è stata proclamata capitale europea della scienza. Nel 2020 ospiterà infatti ESOF. Stefano Fantoni è il presidente della Fondazione Internazionale Trieste, ex rettore della SISA ed è il capitano della squadra, rimanendo in metafora calcistica, che ha lavorato affinché la candidatura triestina si trasformasse poi in un successo. Stefano Fantoni, buonasera, e raccontiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che cos'è ESOF e perché è così importante insomma essere stati proclamati la città che nel 2020 ospiterà e organizzerà questa manifestazione. Dunque, il traguardo che abbiamo raggiunto è effettivamente un traguardo molto importante, come lei ha accennato, ed è un traguardo che in qualche modo certifica il fatto che Trieste è una città in cui la densità della scienza e di tecnologia è molto alta. Questo è una cosa che veniva detto all'interno di Trieste, adesso è l'Europa che ce lo dice, e quindi insomma è un attestato molto importante. Seconda cosa, direi altrettanto importante e forse ancora più importante, è il fatto che è stato premiato un progetto che in cui Trieste è baricentrale rispetto a un territorio che si estende dal nord-est Europa, del nord-est Italia, mi scusi, fino ai paesi del centro-est Europa, e che significa in sostanza qualcosa dell'ordine 220 milioni di persone. Quindi questa extraterritorialità non è mai accaduta nella storia di questa associazione che ha nominato città nel passato, diciamo, che invece hanno sempre rappresentato delle realtà territoriali e quindi nazionali e non extranazionali. Perché ricordiamo appunto ESOF e l'Euroscience Open Forum ed è appunto una manifestazione internazionale, paneuropea, al centro della quale cosa c'è? C'è il dibattito che ruota intorno alla scienza? Esatto, questa associazione è la più grande associazione di divulgazione della scienza europea e quindi essere capitale europea della scienza significa sostanzialmente questo, cioè essere in grado di organizzare dibattiti a livello internazionale ed europeo in particolare su come si comunica la scienza agli scienziati, qual è il rapporto tra scienza e gli imprenditori, quindi la produzione, tra la scienza e la politica, quindi tra la scienza e la società. Quindi ci sono vari aspetti che vengono messi in evidenza in un evento breve nel tempo, diciamo di circa una settimana, ma con un numero molto alto dell'ordine 220 che si avvicendano in questa settimana. Perché appunto Trieste è stata ufficialmente proclamata capitale europea della scienza nel 2020, ospiterà quindi ESOF dal 4 al 10 luglio 2020. Adesso però c'è da rimboccarsi le maniche per organizzare la grande manifestazione. Ma sì, questo adesso è il passo numero due. Il passo numero uno l'abbiamo vinto, come ha detto lei, rigori. Il passo numero due è quello di adesso mettersi in opera e organizzare tutto questo, che significa non soltanto questa settimana che le dicevo e che lei ribadiva, ma anche tutta un'attività che si protrarrà nel 2019 e nel 2020, sempre di discussione e dibattiti dello stesso tipo, ma anche al di fuori di Trieste e nei paesi appunto che concorrono a questo progetto, come Slovenia, Croazia, Ungheria. E per poter far questo noi stiamo pensando già di mettere in piedi fin da subito una struttura che noi abbiamo chiamato Pro ESOF, perché va nella direzione di ESOF, che sia capace di ospitare dibattiti tra esperti, scienziati, divulgatori dei paesi del centro-est Europa e del Triveneto insieme a noi, proprio per arrivare al 2020 pronti a far vedere a tutti i cittadini, a tutta Europa, quello di cui siamo capaci. Quindi un nuovo spazio dedicato alla scienza, a chi la scienza la fa, a chi la scienza la comunica e a chi dalla scienza è incuriosito, a Trieste, città della scienza. Stefano Fantoni, grazie per essere stato con noi, che dirle, in bocca al lupo e buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Al chilometro 42 dell'A21 c'è un alveare di 40 metri cubi, vediamo come se la cavano. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La Vespa che fece il lavaggio del cervello al bruco di Matt Simon, un giornalista, edito da Raffaello Cortina, un libro raccapricciante ma assolutamente fantastico. Ne ho parlato con Telmo Pievani, storico della scienza, ma in particolare studioso dell'evoluzionismo. E naturalmente gli ho detto: parti subito con una storia tremenda. La storia più raccapricciante tra queste raccolte da Matt Simon io credo che sia quella classica, cioè quella darwiniana. Ce ne sono due in realtà, ero incerto, ma quella cioè di quella vespa che utilizza il bruco, tra l'altro facendogli anche il lavaggio del cervello, cioè facendo in modo che poi il bruco si comporti per i suoi fini, e poi gli infila dentro le sue larve e queste larve iniziano a mangiare dall'interno il bruco, ecco. Ma lo fanno non in un modo, come dire, avventato tutto d'un colpo, ma c'è tutta una strategia che è di una perversione, di una cattiveria assolute, per cui non se lo mangiano subito, iniziano a mangiare le parti non vitali, così lui resta in vita, quindi è ancora carne fresca per giorni, già, certo. E gli mangiano soltanto alla fine gli organi vitali, a quel punto muore e la larva esce. Quindi è un, come dire, già Darwin diceva: non può esistere un progettista intelligente, non può esistere un creatore della natura che possa aver così cinicamente immaginato una strategia del genere. Darwin non conosceva però una, secondo me, una strategia ancora più sofisticata, che è quella di certi funghi che ipnotizzano letteralmente delle formiche per farsi portare in giro e usare come vettori, no, come diffusori delle loro spore queste formiche, quindi le fanno letteralmente comportare in un certo modo. Questo è molto interessante come episodio di Matt Simon, perché oggi ci sono molti studi in campo evoluzionistico che fanno vedere come nei rapporti di parassitismo, di competizione, di antagonismo, per esempio insetti, piante, in questo caso funghi, formiche, molte specie, lo fanno per esempio molte piante, hanno imparato a usare delle sostanze psicotrope, praticamente delle droghe, per condizionare il cervello degli individui che vogliono parassitare. Non pensavamo fosse possibile in natura, invece lo fanno molte specie. E tornando alla Vespa, la Vespa perché fa questa cosa pazzesca? Beh, è una strategia di riproduzione, quindi sostanzialmente è una fonte di cibo formidabile per queste larve, che poi sono protette dentro il corpo del bruco e poi non devono fare altro che uscire e diventano adulte. Ma scusa, però le vespe vanno sempre così, cioè hanno sempre un bruco a disposizione? Esatto, è così che diventa una vittima. E infatti una cosa che a me colpisce sempre molto, perché vedi, spesso si dice nell'evoluzione tutto è in equilibrio, tutto è perfetto, c'è il predatore, la preda, ognuno ha i suoi interessi. In realtà spesso nell'evoluzione succede che tu stai fotografando un fenomeno in cui c'è uno che vince e uno che perde, perché la domanda qua è: ma che vantaggio ha la specie che fa i bruchi a farsi mangiare dalle larve? La risposta, certo, è nessuna. Nessuna, nel senso che si fanno parassitare senza nessun vantaggio. Quindi non è vero che tutti gli comportamenti che vediamo in natura sono ottimali, razionali e perfetti. In questo caso tu è come se fotografassi una competizione in cui uno dei due sta prendendo un vantaggio su quell'altro, tremendo, e quell'altro sta perdendo e basta. E i bruchi, nel senso che le vespe sono milioni di miliardi, praticamente dovremmo avere... Quanto dura questa specie di... Dura diversi giorni e naturalmente siccome molti bruchi vengono divorati, la strategia difensiva, ma meramente difensiva, di quella specie è di farne di più e in qualche modo di bilanciare la predazione, perché poi a tutti gli effetti è una predazione, da parte delle vespe. Cioè non avremmo bruchi se loro non ci avessero dato dentro in un modo impressionante per avere superstiti. Esattamente, però quello che viene fuori molto bene da questo libro è appunto che in natura non c'è perfezione, che è tutto molto dinamico, che non dobbiamo pensare, come già diceva Leopardi, che quando io guardo il giardino dietro casa è tutto bello, ridente, vai a vedere dentro e vedi che è fatto di morte, sopraffazione, quindi è un libro molto pessimista da questo punto di vista, però è una lezione secondo me salutare, perché e questo è molto importante anche nel dibattito pubblico, se vuoi, di oggi. Ci dice che non dobbiamo fare l'errore di pensare che la natura sia un'autorità morale, cioè che una cosa in quanto naturale debba essere buona, giusta. No, la natura è piena appunto anche di cose orribili come quelle che racconta Mazzaino, ecco, in questo libro. Qui in questo libro ci sono davvero 200 pagine di robe tremende. Mi è venuta in mente una domanda invece rispetto alle formiche. Loro gli dicono a me gli occhi le ipnotizzano e per un po', poi dopo la formica torna, non ricorderà niente. In realtà le porta al suicidio questi individui, cioè fanno in modo che poi muoiono queste formiche, però nel percorso in cui sono state praticamente trasformate in robot obbedienti al fungo, il fungo ha fatto tutti i suoi interessi, cioè si è diffuso effettivamente. Lo schiavismo tra le formiche è un altro esempio molto particolare. Ci sono specie di formiche che ne schiavizzano delle altre, e quelle che vengono schiavizzate non ne hanno sostanzialmente un vantaggio, sono parassitate completamente. Posso apprezzare il garbo che tu hai avuto nel raccontare cose tremende, ma ne hai lasciate di peggio dal punto di vista. Ci sono delle forme di accoppiamento, delle sessualità perverse. Beh, anche questo è molto importante, però, perché noi siamo abituati a pensare che i due sessi siano in armonia perché ovviamente hanno interessi comuni. Sì. In realtà in natura spesso i sessi sono antagonisti, il maschio fa i suoi interessi, la femmina ha degli interessi diversi, e il risultato che si ottiene è un compromesso, un tira e molla tra gli interessi dei maschi e gli interessi delle femmine. Pensa alla mantide religiosa o a tutte quelle forme che uccidono, divorano il maschio durante l'accoppiamento, e quindi la mantide è costretta a fare molti più maschi figli perché il maschio è una sorta di rito sacrificale. Senti, un'ultima considerazione. Tutto quello che dicevi prima è importantissimo, perché non riguarda solo quando parliamo delle cose che avvengono in natura, ma di quando parliamo della natura come riferimento in altri casi, per esempio quando si parla di tante cose che hanno a che vedere, siamo tutti d'accordissimo con la sostenibilità e l'ecologia, si corre questo rischio di parlare della mamma natura, che non c'è, non esiste, è perfida e buona, tutte le vie di mezzo che vuoi. È ambivalente, esatto. Ecco, si può restare estremamente sorpresi, no, da questa infinità di variazioni che ci sono, hanno una loro logica, ma forse viene anche fuori il fatto che l'evoluzione è veramente un gran caos, e allora a un certo momento vengono fuori anche funzionali questo tipo di follie, no? Cioè non è che c'è appunto il disegno, è un tale disordine che riesce però ad avere uno scopo, e però dal disordine gli scopi si raggiungono nei modi più strani, no? Esatto, sì, ma sappiamo anche perché succede così, nel senso che uno dei meccanismi fondamentali dell'evoluzione è che cerca di esplorare tutte le soluzioni possibili, e quindi per esempio se una specie nuova o più specie nuove arrivano in un ambiente disabitato, tu lo vedi benissimo, queste cosa fanno? Cominciano a diversificarsi, a specializzarsi nel lavoro, a dividere quell'ambiente in nicchie diverse, ogni specie trova delle soluzioni diverse, quindi la diversità stessa è un modo per vedere il successo dell'evoluzione. E a partire da cosa però? Perché è un altro errore che si fa sempre, che si pensi che l'evoluzione inizi dal nulla. In realtà l'evoluzione è sempre un processo che trasforma qualcosa di esistente, no? Quindi fa quello che può, come già diceva Darwin, fa quello che può con il materiale a disposizione. Ecco perché è sempre piena di imperfezioni, perché trasforma magari una struttura che era adattativa per un certo ambiente, smette di esserlo e viene riconvertita per fare tutt'altro, ma non è nata per quello scopo lì. E quindi è sempre un po' subottimale, no? Il nostro corpo stesso è pieno di cose non perfette che ci fanno dannare. Perché? Perché è il frutto di un continuo rimaneggiamento. Questa è l'evoluzione. E non potrebbe essere, insomma, da quello che ormai si capisce, non potrebbe essere diversa, perché se lavorasse con due o tre elementi, probabilmente la vita sarebbe scomparsa in un pomeriggio. Esattamente. Una volta apparsa. È uscito un articolo su Science, anzi, la copertina di Science recentemente era piena di uova e c'era una bellissima domanda in copertina: ma perché le uova hanno questa forma qua, ellittica, sferica? Una volta si pensava ogni forma dell'uovo, ellittica, sferica, è perché ha una certa funzione, e poi invece si è scoperto che quella forma lì è dovuta soltanto a dei vincoli strutturali degli uccelli, per cui è frutto soltanto di un vincolo strutturale e non di una funzione. Va bene, io ti ringrazio, vi lascio con un box a pagina 80 per darvi l'idea, insomma, del libro, perché non incontrerete mai un dentista dei cetrioli di mare e non gli spieghiamo assolutamente perché? Che cos'è. Matt Simon, un giornalista bravo, inglese, creativo, La Vespa che fece il lavaggio del cervello al bruco, e edito dal Raffaello Cortina. Ciao Telmo. A presto, ciao. È finita. E allora salutiamo tutti e tutte qui fra 7 giorni. Buona serata.